Extra. L'approfondimento settimanale di Radio Press. Un saluto da Nicola Muscas, nuova puntata di Extra, l'approfondimento settimanale di Radio Press dedicato oggi alla gestione della psichiatria in Sardegna a Cagliari, un tema molto controverso soprattutto dopo il cambio di colore della maggioranza. Alla regione ci dà spunto di discussione oggi l'ultima denuncia arrivata dall'ASARP, l'ASL di Cagliari. Dice l'associazione ha comunicato attraverso la stampa la chiusura delle 24 ore del centro di salute mentale di Via Romagna. Vedremo di che cosa si tratta in fondo alla discussione di questa puntata. È ospite in studio la presidente dell'ASARP, Gisella Trincas, ben trovata. Buongiorno. L'Associazione Sarda per l'attuazione della riforma psichiatrica. Sarà con noi e sarà importante il punto di vista di un medico, il dottor Alessandro Montigi, responsabile del Centro di Salute Mentale Cagliari Ovest. Ben trovato. Buonasera, ben trovati a tutti. Rosalba Poddesu, familiare di una persona affetta da patologie mentali. Buonasera, ben trovata. Buonasera. Molte polemiche attorno alla gestione della psichiatria in Sardegna. In questa puntata cercheremo però di capire quali sono le criticità, innanzitutto su quale linea di indirizzo si sta muovendo la Commissione Tecnica per la Salute Mentale nominata dall'assessore alla Sanità Liori. Intanto ben trovata anche al primo ospite telefonico di oggi, Natascia Casu, ben trovata. Buonasera a tutti. Allora, Natascia è la figlia di Giuseppe Casu, lo ricorderete tutti, che morì in corsia nel reparto di psichiatria del Santissima Trinità dopo 7 giorni di contenzione nel 2006, una vicenda drammatica da cui poi è partita sia la riflessione a livello mediatico sulla gestione della salute mentale in Sardegna presso l'opinione pubblica, che è rimasta molto colpita. Natascia, la storia a grandi linee è nota praticamente a tutti perché ne hanno parlato spesso i giornali ed è un fatto che ha colpito l'opinione pubblica della nostra regione, però la tua testimonianza diventa preziosa perché mostra dei dettagli che solo il coinvolgimento diretto di un familiare può sottolineare. Era il giugno del 2006, che cosa successe? Il giugno del 2006 mi chiamano al telefono, chiamano mia madre esattamente, io mi precipitai subito al telefono e ci avvisarono e ci dissero che papà stava male, di andare subito in ospedale. Arrivati in ospedale ci dissero che era già morto. Quando l'abbiamo visto, io l'ho visto per la prima volta slegato proprio lì da morto, perché in tutti i 7 giorni del suo ricovero è sempre stato legato mani e piedi. Io ovviamente ho voluto capire, volevo capire perché mio padre era morto, quindi mi sono rivolta all'ASARP, abbiamo insieme parlato, ho raccontato la mia testimonianza e l'ASARP ha fatto una richiesta di apertura interna. Poi mi sono rivolta dai legali e tramite i legali è stato fatto un esposto alla magistratura che attualmente sta lavorando per aiutarmi a capire perché e di cosa è morto mio padre. Si è anche costituito un comitato di cittadini per aiutarmi a ottenere verità e giustizia sulla morte di mio padre. Nella istruzione del processo ci sono stati anche dei casi molto molto singolari da cui poi le indagini hanno preso spunto per approfondire. Si parlava anche di un'inchiesta bis, da una parte sì. La scomparsa dei reperti autoptici e dall'altra, cosa recente, una notizia di questo gennaio, sarebbe sparita anche la cartella clinica di tuo papà. Sì, diciamo che durante le prime indagini il magistrato Gian Giacomo Pilia ha richiesto la consegna di tutti i materiali, compresi anche le parti anatomiche, l'unica autopsia effettuata. Le parti anatomiche di mio padre, dopo un attento esame dei periti nominati dal PM, sono stati risultati essere quelli di un altro uomo, morto sì per embolia polmonare, cioè la stessa causa che ufficialmente è la causa di morte di mio padre, ma a causa di un tumore, da cui nasce l'inchiesta bis, che appunto riprenderà il 7 maggio, che vede imputati il primario di anatomia patologica Faccioni e un tecnico ESU, un tecnico di laboratorio Stefano ESU, sparizione di parti anatomiche, sostituzione, falso materiale, falso ideologico, favoreggiamento. Insomma, sicuramente aspetti controversi da chiarire, la magistratura ne avrà più di uno, appunto tenuto conto anche di quello che i giornali hanno raccontato a gennaio della presunta sparizione della cartella clinica. In che condizioni arrivò Giuseppe Casu in ospedale prima del ricovero? Stava bene, stava male? Guardi, io ho potuto vedere mio padre il giorno dopo che era ricoverato, perché il giorno stesso hanno fatto entrare un attimo mia madre, visto legate mani e piedi. Devo dire che gli ho fatto una radiografia con gli occhi, cioè ho cercato di capire, di captare, di controllarlo per vedere se le voci che mi erano arrivate, cioè quello che in piazza l'avevo trattato in malo modo, potesse avere qualche fondamento. Ho anche chiesto, ho parlato della mia preoccupazione con i medici che mi hanno rassicurato dicendomi che non poteva essere. Comunque, fatto sta che io ho visto mio padre legato mani e piedi e questo mi ha molto scioccata, però mi sono affidata ai medici perché non avevo nessun motivo per poter dubitare della loro professionalità. Che cosa non ha funzionato poi? Io penso solo una cosa, che in tutti questi 7 giorni noi che siamo sempre andati a trovare mio padre abbiamo chiesto quando l'avrebbero potuto slegare o meno. Però loro dicevano che non era possibile, quando l'avrebbero fatto, che quando sarebbe stato possibile l'avrebbero fatto. Oggi ci stiamo occupando di capire, a partire dalla vicenda drammatica di Giuseppe Casu, che percorso dovrebbe seguire come dire, la gestione della salute mentale in Sardegna, a Cagliari, secondo la tua esperienza, che come dire, è stata un'esperienza molto provante, per evitare nuovi drammatici episodi come quelli, che cosa si dovrebbe fare? Allora, io prima di tutto, non solo come figlia, ma anche come cittadina, penso una cosa molto semplice. Io oggi, se avessi un problema, se dovessi malauguratamente avere una fase particolare e aver bisogno di un servizio psichiatrico, io oggi non vorrei essere legata. Anche l'idea che mio padre sia non solo stato tenuto 7 giorni sempre legato, ma anche morto legato, mi fa rabbrividire. Cioè, pensare che legare è considerato cura, io lo vedo inumano. Perché fino a poco tempo fa si stava curando le persone senza la necessità di doverle legare e ora si riprende a legare. Io mi chiedo perché, che necessità c'è nel legare? Io non vorrei essere legata e quindi a questo io mi oppongo prima di tutto come cittadina. Io non vorrei essere legata e lo vorrei dire a tutti, mettetevi il problema, voi vorreste essere legati, perché questo non è un problema solo della vicenda di mio padre, di come è morto mio padre, io penso che riguarda tutti, se tutti noi ci rendiamo conto che le buone pratiche, migliorare il servizio psichiatrico è un dovere e diritto di tutti noi cittadini, solo allora secondo me le cose miglioreranno, perché non sto dicendo, di certo non lo dico io che attualmente si sta nuovamente nel reparto dell'SPDC1 dove attualmente ha ripreso a lavorare il dottor, che appunto è uno degli imputati, tra gli imputati del processo, diciamo. Sì, ma poi c'è anche un'altra cosa che volevo dire, c'è un altro processo ad esempio, no? Perché tutti i medici che sono stati titolati come testimoni dei 2 medici imputati, cioè del primario Turri e della dottoressa Cantone, cioè Baita Antonella, Murgia Maria Rosaria, Murta Marco, Scamonati Luciana, Coni Marisa, ora sono attualmente tutti imputati, cioè è nato un altro processo che inizierà da nuovo, perché tutti questi medici hanno detto che con le loro dichiarazioni si sono autoaccusati, hanno detto che tutti quanti avrebbero fatto la stessa cosa dottor Turri e la dottoressa Cantone hanno fatto mio padre, che loro hanno approvato lo stesso metodo. Quindi la contenzione era una terapia condivisa, questo sostanzialmente hanno pronunciato. Esatto. Natasha, come abbiamo sentito, la tua battaglia continua sia per scoprire la verità, cosa è successo in quei 7 giorni e se ne occuperà appunto la magistratura, che poi da cittadino una battaglia proprio di civiltà. Chi ci ascolta può seguire queste iniziative anche su internet, ci sono dei contatti che vuoi segnalare prima di salutarci? Molti aggiornamenti li mando tranquillamente alle reti invisibili, che quindi basta digitare in internet le reti invisibili e si trovano gli aggiornamenti. Poi c'è anche il forum della salute mentale, al quale anche lì vengono mandati alcuni aggiornamenti, e poi ho aperto un blog, anche se non ci vado spesso, che si chiama Verità per mio padre, senza l'accento, .blogspot. E quindi questi sono i riferimenti. Grazie a Natasha Casu per essere stata con noi, alla prossima. Buongiorno. Questa Extra, siete all'ascolto di Radio Press, Nicola Muscas al microfono, abbiamo sentito la testimonianza della figlia di Giuseppe Casu, lo ricorderete, il venditore ambulante di Quartu che morì nel 2006 dopo 7 giorni di contenzione nel reparto di psichiatria alla Santissima Trinità. In questa puntata ci stiamo occupando di capire come può essere attuata una corretta gestione della psichiatria in Sardegna. In studio con noi Gisella Trincas, presidente dell'ASARP. Da questa vicenda come dire, scoppiò una grossa spaccatura nella visione della salute mentale in Sardegna. Diciamo che un pochino anche prima di questa vicenda, nel senso che questa vicenda... Forse gli aveva dato risalto mediatico. Sì, diciamo. gli ha dato un maggior risalto, e forse questa vicenda, che chiaramente era meglio che non si fosse verificata, ha creato invece una spaccatura forte tra gli operatori e tra alcuni operatori e noi, insomma, il mondo dell'associazionismo. Però già prima, da quando è arrivata l'assessore di Rindin e ha accolto le richieste nostre, insomma, delle associazioni dei familiari della Sardegna, che chiedevano che venisse messa mano con forza alla questione della salute mentale, che aveva un piano regionale vecchio di 20 anni, no? E continuava comunque a portare avanti delle pratiche che noi non consideravamo buone pratiche nella loro generalità. Poi chiaramente c'erano delle eccezioni in Sardegna, come anche da altre parti, e quindi l'assessore, da subito, accogliendo le nostre richieste, ha iniziato a costruire, come dire, un percorso che poi portasse a un nuovo piano per la salute mentale, che avesse al suo interno non solo le richieste, le proposte delle associazioni dei familiari, ma le stesse indicazioni della Commissione Europea, di Helsinki e dei progetti obiettivo nazionali. Quindi c'era già un percorso in atto, che sì, l'episodio di Giuseppe Caso, con il suo risalto mediatico, aveva in qualche modo esasperato le posizioni contrapposte, diciamo. Sì, tra l'altro c'è anche un altro elemento da ricordare, che è importante secondo me. Era arrivata da pochissimo, proprio da pochissimi mesi, la dottoressa Giovanna Del Giudice, che era stata chiamata dal direttore generale dell'ASL a guidare veramente, a costruire il Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari. E l'arrivo della dottoressa Del Giudice è stato fortemente contrastato da diversi medici della psichiatria. Quindi la nostra richiesta di apertura di inchiesta all'ASL, subito dopo aver appreso della morte del signor Casu, e quindi l'attivazione da parte della dottoressa Del Giudice e dello stesso direttore generale Gumiratto, che hanno aperto un'inchiesta amministrativa, come era giusto che loro facessero, ha scatenato, insomma, le ire di tante persone. Questo è inaccettabile, perché, insomma, si trattava della morte di un uomo e tutti quanti avevamo, come dire, la responsabilità di far chiarezza, prima fra tutti l'azienda sanitaria. In studio con noi il dottor Alessandro Montigi, responsabile del Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest. Dottor Montigi, quali sono le criticità maggiori che da medico le sembrano esserci attualmente nel campo della salute mentale? Allora, buonasera a tutti. Dopo aver sentito la testimonianza di Natasha Casu, mi viene abbastanza difficile aggiungere molte altre parole, in quanto aver sentito dalla sua voce come quello che ha provato vedendo il padre legato per tanti giorni, e come lei, come cittadino, giustamente dice che qualsiasi disturbo della salute mentale lei possa avere vorrebbe non essere legata, io credo che questo sia più che sufficiente. Condivido perfettamente il fatto che la contenzione deve essere abolita. Sappiamo che non è facile abolirla, ed per arrivarci bisogna attivare un percorso difficile, lungo, che richiede il coinvolgimento onesto degli amministratori, dei politici e dei tecnici soprattutto. Però non è impossibile. Anche a Cagliari c'è il servizio psichiatrico 2, che è stato attivato nel febbraio del 2009 con proprio l'obiettivo di non contenere le persone e di avere le porte aperte. E in Italia esiste il club degli SPDC, dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura non restrainti, cioè non restrittivi, che o non usano mai la contenzione e non tengono mai le porte chiuse, oppure una delle due cose, e si stanno incontrando e stanno portando avanti dei confronti molto serrati a livello nazionale, non solo, proprio per dimostrare che è un percorso, un processo che si può avviare e che dà ottimi risultati, nel senso che il clima che si crea nei servizi psichiatrici non restrained, dove non si contengono le persone, è assolutamente più favorevole per evitare quella tensione, quella violenza che poi rende inevitabile l'uso della contenzione. E in Italia sono il 20% dei servizi psichiatrici che ormai funzionano in questo modo. A Cagliari abbiamo un esempio di servizio psichiatrico che funziona in questo modo. Io credo che molto onestamente noi operatori su questo dovremmo confrontarci. Per quanto riguarda l'attuale politica regionale, io so che c'è la commissione che sta lavorando, che doveva presentare i risultati entro dicembre, così ci aveva detto l'assessore. Non sono stato informato, non mi risulta ancora. Attualmente le ultime informazioni, perché abbiamo provato anche a contattare qualche membro della commissione, parlano di la presentazione di una prima relazione tecnica entro 2 settimane, diciamo. Sì, vedremo la relazione, il contenuto, però mi sembra importante, oltre i progetti, le relazioni, le valutazioni, anche i fatti. Una cosa che abbiamo fatto presente all'assessore e anche a alcuni componenti della commissione in più circostanze pubbliche è che nel 2009 a noi dei centri di salute mentale sono venuti a mancare i finanziamenti che la finanziaria prevedeva, che c'erano stati assegnati negli anni precedenti e che permettevano a noi operatori dei centri di salute mentale di mettere in piedi dei progetti di sostegno personale, progetti terapeutici abilitativi individuali, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, l'abitare assistito, interventi fondamentali perché il centro di salute mentale possa costituire un vero riferimento per la popolazione che ha problemi della salute mentale, sperimenta la sofferenza mentale e soprattutto smettere di superare il modello dei centri di salute mentale come ambulatori, perché se i centri di salute mentale si riducono a fare solo attività ambulatoriale, quindi l'orario d'ufficio e oltre le visite psichiatriche, le terapie farmacologiche, le psicoterapie, che sicuramente sono assolutamente importanti e indispensabili, ma spesso nei casi gravi non sono sufficienti per migliorare la situazione, per migliorare la salute, le condizioni cliniche delle persone, allora è evidente che c'è bisogno di tanti altri interventi e la complessità delle situazioni e della sofferenza delle persone che noi vediamo tutti i giorni richiede la possibilità da parte dei centri di mettere in campo interventi che hanno bisogno di risorse. Se queste risorse non ci vengono date, la nostra operatività è molto limitata e le persone non possono avvalersi di quegli interventi assolutamente utili e necessari che abbiamo verificato come danno risultati in termini di salute clinici assolutamente importanti. Una domanda per Rosalba Poddesu, familiare di una persona affetta da patologie mentali. Di che cosa ha bisogno una persona che soffre di un disturbo mentale dal punto di vista della presenza, diciamo, anche non solo clinica, diciamo? Buonasera. Intanto penso che la cosa principale di cui abbia necessità una persona affetta da disturbo mentale o disagio mentale sia l'accoglienza. Un'accoglienza e una comprensione in grado di recepire i suoi bisogni. È ovvio che l'evento che porta la persona ad avere un disturbo, qualcosa che soprattutto nei giovani spaventa tantissimo, è un trauma dal quale rimettersi in piedi è veramente difficile. Sicuramente non può essere soltanto la famiglia a gestire problematiche di questo genere. Ed è a rischio secondo voi un tipo di accoglienza di questo genere nell'ultimo periodo oppure no? Puoi ripetere la domanda? Dico, è a rischio un tipo di assistenza, di accoglienza di questo tipo nell'ultimo periodo oppure sicuramente. No? Sicuramente. Voglio dire, è demotivante se non addirittura può aggravare la patologia, sicuramente aggravare la patologia, perché non vede, cioè la persona affetta non vede altre risposte che la contenzione che consiste nel farmaco, perché se a un certo punto i centri di salute mentale diventano quasi esclusivamente distributori di farmaci e basta, è ovvio che questo non può che complicare la situazione. È con noi il prossimo ospite telefonico di questa puntata di Extra, in cui ci stiamo occupando di fare il punto sulla gestione della salute mentale in Sardegna. Cagliari, consigliere regionale dei Riformatori, ex manager del Brozzu, ben trovato Franco Meloni. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Tante polemiche attorno alla gestione della salute mentale, onorevole Meloni. L'assessorato alla sanità ha nominato una commissione che dovrà dare degli indirizzi per avviare un nuovo corso. Quali sono, secondo lei, i nervi scoperti, le emergenze, se ci sono, dov'è che bisogna intervenire, secondo lei? Beh, guardi, veniamo, io poi non sono un psichiatra, quindi non è che, però certo. Posso dire che veniamo da una situazione ambientale, direi, profondamente lacerata, in cui si è fatta nel passato la scelta di agire in una certa direzione senza, ammesso dico che sia giusto, che non entro nel merito, ma senza la dovuta gradualità, senza considerare quelli che c'erano prima, perché si è creata, è inutile che glielo dica, lo sa come lo so io, una situazione terribile di conflitto nell'ambito della psichiatria. Certo. E io credo che l'intento principale dell'assessore Liori nel nominare questa commissione sia proprio quella di cominciare a rasserenare gli animi. Trovare un percorso condiviso, dice lei. Sì, esatto, più che di fare in questo momento una scelta scientifica, che poi faranno gli psichiatri, per carità, io non so cosa dire, però proprio quello di rasserenare gli animi, di convincere tutti che qualunque scelta si faccia, nessuna scelta è fatta per fare male agli ammalati e nessuna scelta fa male agli ammalati, ci sono diverse possibilità di agire e ci auguriamo tutti che entrambe siano perseguite in buona fede e nell'interesse esclusivo del malato, insomma. C'è forse Gisella Trincas, presidente dell'ASARP, che vorrebbe fare una domanda o comunque intervenire a questo punto del dibattito. Sì, no, mi domandavo, no? Il dottor Meloni dice che veniamo fuori da una situazione, come dire, di rapporti fortemente lacerati. Credo che questo dipenda dal fatto che ci sono state molte resistenze, dottor Meloni. Io questa cosa la dico con molta sincerità. Ci sono state molte resistenze, in modo particolare dalla classe medica, al processo di cambiamento. Non si chiedeva nulla di straordinario, se non quello di applicare delle norme, delle indicazioni ben precise che sulle questioni della salute mentale sono già indicate. Ecco. Dottoressa Trincap, non è così semplice come lei la vuole far sembrare. Io capisco la sua posizione, anche perché so che lei era nettamente schierata dalla parte della Dirindin e di quella scuola. In realtà c'è un'ipotesi di tipo di intervento che è molto ideologicizzata, è stata fatta una battaglia ideologica, dottoressa Trinca, lei lo sa meglio di me, quindi le resistenze nascono da questo, non dalla cattiveria o dalla resistenza ottusa e conservatrice di una classe medica che non voleva saperne di cambiare. Nessuno ha detto che il cambiamento in quella maniera è positivo, anzi, ripeto, io non sono uno psichiatra, quindi mi viene difficile dare giudizi nel merito, però l'opinione prevalente, diciamo la verità, poi saranno tutti scemi, non lo so, ma l'opinione prevalente è che quel cambiamento fosse profondamente negativo. Le resistenze nascono da questo, non possiamo far finta. Poi, ripeto, non è competente per entrare nel merito, quindi per dire se questa posizione è giusta o sbagliata, però le resistenze nascono da questo, nascono dal fatto che c'è una profondissima convinzione, in buona parte, direi, nella grande maggioranza della medicina sarda, medicina naturalmente parliamo del campo della psichiatria, che quel cambiamento fosse negativo. Nasce da quello, quindi non è la resistenza nata così per nascere, giusto per fare un dispetto all'assessore piuttosto che a qualcun altro. Dottor Alessandro Montigi, responsabile del Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest, c'erano delle resistenze ideologiche a quel tipo di cambiamento? Era un cambiamento che non faceva bene alla gestione di questo tipo di patologie? Ma c'è stato quello che c'è stato e non ci voglio tornare sopra perché non ha molto senso. Colgo l'occasione di avere in linea un dottor Franco Meloni, che forse ho conosciuto in occasione dell'audizione che c'è stata in Commissione Sanità a noi come Forum Salute Mentale. Sì, c'era anche lei, vero? Ci siamo visti in quell'occasione. Sì, certamente. Benissimo. Ecco, io approfitto della sua presenza per chiederle una cosa molto semplice, come dicevo prima. Allora, alle ideologie, alle guerre ideologiche possono interessare agli psichiatri, ai politici, non so a chi altro, ai pazienti sicuramente no. Per quanto riguarda invece i finanziamenti di cui parlavo prima, non so se seguiva la trasmissione, per cui finanziamenti... No, purtroppo no. Ah, ecco. Lei sa, come componente della Commissione Sanità, che nella finanziaria del 2007 sono stati previsti dei finanziamenti del 20% della legge 20 che venivano distribuiti ai vari dipartimenti di salute mentale. Alla slotto di questi finanziamenti venivano circa 600.000 euro, una cifra del genere. Li abbiamo ricevuti sino al 2008 e con quelle risorse ogni centro di salute mentale, il mio in particolare perché io conosco il mio, ha potuto mettere in campo una serie di interventi assolutamente importanti sia per gli inserimenti lavorativi, sia per il sostegno domiciliare alle persone, sia per il sostegno educativo, sia anche per attività di risocializzazione che nella integrazione fra interventi sociali e sanitari, sappiamo quanto è difficile integrarci veramente, quindi è sicuramente importante che direttamente noi con i nostri pazienti potevamo fare certe attività, ci hanno assolutamente permesso di spostarci un pochettino, neanche tanto, dall'ambulatorio CSM a un CSM capace di accogliere e di dare risposte efficaci. Adesso, nel 2009, per quanto l'assessore Liori ci avesse assicurato in occasioni pubbliche che avrebbe provveduto a fare questo trasferimento, non c'è stato ancora fatto, siamo già nel 2010. Le chiedo se lei ritiene opportuno e importante che ci si attivi, perché questa risorsa è importantissima per i pazienti. Sì, vengano. Io non ne so granché, perché noi siamo solo il ramo legislativo, non è che i consigli regionali possono fare tutto, l'esecutivo è l'assessore. Io le assicuro che chiudo questa telefonata e chiamerò l'assessore per sollecitarlo, perché se non ci sono ostacoli è giusto che questi soldi vengano dati il più presto possibile, quindi lo faccio immediatamente. La ringrazio tantissimo a nome degli operatori, dei pazienti e dei familiari. Che mi mancherebbe, lo faccio molto volentieri. Torno un attimo a quello che ha detto lei prima, sulle dispute ideologiche. Le dispute ideologiche purtroppo ci sono state, poi ripeto, io non essendo uno psichiatra non ho competenza per dire chi aveva ragione o no, ho solo risposto alla dottoressa Trincas per dire non era un dispetti, no? Era proprio una profonda differenza di visione della psichiatria. E lei dice non interessano i pazienti, interessano i politici. Guarda, io non mi considero neanche un politico, perché ci sono capitato da 10 mesi e non sono certamente un politico di professione, però devo dire cose che interessano prima gli psichiatri, ho detto veramente prima gli psichiatri, poi forse i politici, ho aggiunto. No, interessano gli psichiatri, interessano i politici e interessano anche i pazienti, perché dall'elaborazione teorica, filosofica, ideologica di una questione ne ricaviamo delle ricadute pratiche che interessano il cittadino, quindi certo, insomma certo, sono certo. Cose che interessano anche i pazienti, non nel senso che loro dibattono, ma interessano perché sono poi gli effetti finali che ricadono su di loro. Però su questo un'altra osservazione, se posso. La commissione sulla salute mentale, che portava il parere e il contributo a livello regionale e dei direttori dei dipartimenti, dei comuni, delle associazioni, perché non è stata più mantenuta in piedi? Mi chiedo. No, non ne ho la minima idea. Non so come fosse composta, non so perché non sono venuta in piedi, non so se c'è una decisione, non so perché eventualmente non è stata rinnovata, proprio questo mi dispiace, ma non posso. Ok. Intanto perlomeno abbiamo preso l'impegno di verificare se i finanziamenti saranno ripristinati o no. Grazie. Grazie a Franco Meloni, consigliere regionale dei Riformatori, per essere stato con noi. Grazie a voi di avermi interpellato e buona serata e buon lavoro. Andiamo avanti con extra battute finali del nostro programma d'approfondimento. In studio Nicola Muscas, con noi Gisella Trincas, presidente dell'ASARP. Qualcosa da aggiungere sulla questione della disputa ideologica? Era così, sì. Non era così? Sì, io chiaramente non voglio parlare di dispute ideologiche, ma di questioni un po' più concrete. Allora, io conosco la realtà italiana e quindi io conosco quelli che sono le richieste che le famiglie, le associazioni di familiari su tutto il territorio nazionale fanno affinché dappertutto ci siano buoni servizi per la salute mentale capaci di dare risposte alle persone. E quando parliamo di risposte intendiamo quelle risposte che aiutano le persone a venire fuori da un percorso di difficoltà, di sofferenza, no? Quindi guarire nella misura in cui è possibile per ciascuno. quello che la Sardegna ha cercato di fare è quello che stanno facendo tutte le regioni d'Italia. Quindi io non riesco a capire quali siano le questioni vere, no? Che alcuni hanno posto in Sardegna. Perché che cosa si chiedeva? Si chiedeva che, ad esempio, i centri di salute mentale non fossero ambulatori psichiatrici, no? Come di norma sono, non solo in Sardegna ma anche in Italia, ma che fossero dei veri centri di salute mentale capaci di assumersi la presa in cura delle persone con un disturbo, ma la presa in cura di un territorio. I centri di salute mentale, secondo noi e secondo tanti altri soggetti che si occupano di queste questioni, devono essere aperti 24 ore su 24 con dei posti letto, proprio per evitare i ricoveri nei servizi di diagnosi e cura, perché i servizi di diagnosi e cura non diventino dei luoghi, insomma, invivibili, perché non si portino avanti quelle pratiche coercitive di quindi cui diciamo si parlava. Diciamo che non sono patologie che hanno orario d'ufficio queste. No, ecco. Appunto, quindi CSM aperti sulle 24 ore è un'indicazione, non solo una richiesta delle associazioni dei familiari, ma è anche un'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi non capisco le differenze ideologiche su questo punto. L'altro è la questione dell'abbandono delle pratiche coercitive. Allora, noi sappiamo che un servizio, per poter dare dei buoni risultati, ha bisogno di tutta una serie di risorse, quindi umane, finanziarie, culturali. Il percorso che la regione, su nostre insistenze, ha tentato di fare è proprio quello di intraprendere questa strada, quindi anche del cambiamento culturale, proprio coinvolgendo la comunità intera, quindi non solo le associazioni dei familiari, gli utenti, gli enti locali, ma gli stessi operatori della salute mentale, che sono fondamentali per la trasformazione dei servizi, per il loro miglioramento. Quindi io avrei tanto voluto in tutti questi anni che qualcuno ci spiegasse dove stavano veramente le differenze, che non possono essere certamente tra chi vuole legare e chi no. Le differenze stanno nel modello dei servizi, e il modello dei servizi è quello, il modello dei servizi vincente è quello, i CSM sulle 24 ore. E sulle 24 ore noi abbiamo aperto questa puntata di Extra, la chiusura delle 24 ore del centro di Via Romagna, l'ultima denuncia dell'ASARP. Telegraficamente, Gisella Trincas, che cosa sta succedendo? Allora, noi ci arrivavano comunque delle segnalazioni da parte dei familiari che nel centro di salute mentale di Cagliaria, in via Romagna, non si stavano accogliendo le persone durante la sera. E poi una delle cose che comunque accadeva è che gli operatori del centro di salute mentale sulle 24 ore non dava risposte alle persone di quel determinato territorio, neppure telefonicamente, cioè per le urgenze si rimandava sempre ad altri servizi, ad esempio all'SPDC, quindi snaturando quella che era la funzione del CSM sulle 24 ore. Quindi l'accoglienza diurna e notturna delle persone doveva evitare le situazioni di crisi, no? Allora, questa situazione, quindi il minor ricovero di persone nei CSM, ha determinato da parte dell'azienda sanitaria la chiusura del servizio sulle 24 ore. Ecco, noi a questa decisione ci opponiamo fortemente, perché Cagliari sta facendo un passo indietro gravissimo rispetto invece alle conquiste importanti che in tutta Italia si stanno tentando proprio rispetto a questa questione. Quindi, se abbiamo conquistato questo servizio va difeso e non lasciato morire. Grazie a Gisella Trincas, presidente dell'ASARP, per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie a Rosaura Poddesu, familiare di una persona affetta da patologie mentali, per la sua testimonianza. Grazie. E grazie al dottor Alessandro Montici. Grazie, un saluto a tutti. Responsabile del Centro di Salute Mentale di Cagliari Ovest. Grazie a Cristiano Floris alla parte tecnica, da Nicola Muscas un saluto. L'appuntamento con la replica di questa puntata il venerdì alle 7 del mattino. Torniamo in onda in diretta giovedì prossimo 19:10. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Press.